Benvenuti a tutti, nuova puntata di NBA Week, la trasmissione in podcast settimanale sulla stagione NBA 2017-2018. Stagione NBA che è entrata subito nel vivo e soprattutto nel pieno delle prime gare in calendario. Proviamo quindi, augurandoci di riuscirci, ad analizzare rapidamente gli eventi principali di questa settimana iniziale della National Basketball Association. Inevitabile iniziare parlando di infortuni dopo questa prima manciata di partite. Ne abbiamo visti diversi, alcuni piuttosto gravi, qualcuno potenzialmente gravissimo. Se già abbiamo parlato del dramma di Gordon Hayward occorso per l'Opening Night, per il quale il giocatore dei Celtics si è operato e sembra che un piccolo miraggio di ritorno ai playoffs sia anche inseguibile, molti altri giocatori, anche di prima fascia, gli hanno metaforicamente fatto compagnia nelle ore a venire. Ora, non si tratta in questo caso di prima fascia, ma pochissimo dopo il dramma di Hayward, stagione finita anche per Jeremy Lin, adesso in forza ai Brooklyn Nets. Lo ha seguito uno dei miei protetti dichiarati, Milos Teodosic, che si è malamente infortunato ad un piede e starà fuori a tempo indeterminato. Piuttosto gravi anche le condizioni di uno dei giocatori più attesi per il cambio di casacca, cioè Chris Paul, che ha visto il fastidio sentito nell'Opening Night ingrandirsi fino a diventare motivo di stop anche piuttosto lungo. In realtà si tratta del riacutizzarsi di un infortunio al ginocchio occorso in una sfida di preseason contro Memphis, che dovrebbe tenerlo fuori dai giochi per almeno il primo mese di stagione. A proposito di protagonisti potenziali, Kawhi Leonard dei San Antonio Spurs ancora non ha esordito e lo stesso destino toccherà almeno fino a febbraio-marzo per Isaiah Thomas, ma in questo caso per un incidente occorso nei playoff dello scorso anno che già sapevamo. Infortunio alla caviglia anche per un Derrick Rose che sembrava aver iniziato piuttosto bene la stagione rispetto al ruolo che era destinato a ricoprire per Cleveland. Si tratta probabilmente di una distorsione alla caviglia per un giocatore che però ne ha davvero subite di ogni in carriera. Coach Tyronn Lue si è subito espresso a riguardo con preoccupazione. Che si tratti di una questione di semplice risoluzione o di un qualcosa di peggio è da valutare attentamente, quindi, anche perché con Rose purtroppo non si può assolutamente star tranquilli quando si parla proprio di condizioni fisiche. Insomma, il tema è capire se quello che sta succedendo ha una causa o meno e quindi se i tanti infortuni avvenuti in queste prime gare dell'anno possono essere riconducibili all'avvio anticipato di stagione. Io non sono ovviamente nessuno per giudicare, ma è probabile che un training camp più corto a livello temporale, con conseguente modifica in una preparazione che in un tempo limitato doveva permettere ai giocatori di toccare il campo rapidamente e soprattutto anche le poche gare di preseason a disposizione, possono aver influito in questo status attuale della Lega dall'infortunio facile. Andiamo avanti, andiamo a parlare della sfida tra Oklahoma City e Minnesota di domenica notte, che è stata probabilmente la più bella di questa prima settimana di partite, se non altro per gli ultimi 5 minuti di gara e lo scontro colpo su colpo tra Andrew Wiggins e Russell Westbrook. Quest'ultimo sembra aver ripreso esattamente da dove aveva concluso lo scorso anno. La presenza di George e Anthony offensivamente gli toglie molte responsabilità, o quantomeno l'aiuta a forzare meno conclusioni e a concludere la gara con un numero di tiri tentati piuttosto dignitoso, anche perché gli altri due canestro lo fanno. Nel delirio della partita in questione, dove lo stesso Westbrook domina ogni pallone del finale del quarto periodo, segnando più o meno da ovunque e comunque, il canestro del vantaggio però che si lo mette ad una manciata di secondi alla fine proprio Carmelo Anthony, con una tripla che Russell Westbrook gli concede, servendogli così il suo decimo assist. A questo punto sul più uno per Oklahoma City restano circa 4 secondi e rimessa da fondo per Minnesota, che aveva concluso i timeout a disposizione. Andrew Wiggins riceve la palla e centra allo scadere la tripla della vittoria sulla sirena, sganciata da poco dopo la metà del campo. Si chiude così 115-113 per i Timberwolves e Wiggins ne mette 27 con un sostanziale controllo sulla gara. Anche lui è coadiuvato da un Karl Anthony Towns in doppia-doppia abbondante, a sua volta sostenuto dalla doppia-doppia di un Taj Gibson, che potrà essere davvero decisivo anche più in là nella stagione se continua a mantenersi sui livelli visti in questo avvio. Squadra interessantissima, come già detto Minnesota, da seguire con attenzione. Squadra potenzialmente letale Oklahoma City, come ampiamente ha dimostrato ad esempio nella Opening Night, ma che necessita inevitabilmente di tempo per l'amalgama tra i Big Three che ne caratterizzeranno il destino. Si tratta di due squadre che hanno bisogno quindi, entrambe, di un maggior tempo prima di poter essere valutate se sono capaci o meno di poter raggiungere l'obiettivo che reciprocamente si sono prefissate, che nel caso comunque di Oklahoma City è probabilmente la finale NBA, per cui le cose sono un attimino più complesse, ma obiettivamente non impossibili. Capitolo Rookies. L'avvio di Ben Simmons a Philadelphia è destinato ad essere ricordato principalmente per la qualità e la sicurezza manifestata in campo dal numero 1 del draft lo scorso anno, che, la scorsa stagione, come saprete, non è riuscito ad esordire. Alla quarta partita in pochi giorni, Simmons ha centrato la sua prima tripla doppia nella Lega, coincidente con la prima vittoria del 76ers in stagione contro i Detroit Pistons. Per lui ci sono stati 21 punti, con un ottimo 8 su 11 dal campo, 12 rimbalzi e 10 assist, cifre alle quali si era più o meno sempre avvicinato anche nelle gare precedentemente giocate, seppur la sua squadra fosse sempre uscita sconfitta in precedenza, cosa che, come già detto, non è avvenuta in questa sfida grazie anche all'appoggio di un Joel Embiid da 30 punti, dominante nella sfida contro un Andre Drummond di Detroit da 14 punti e 14 rimbalzi. Le medie di Simmons si attestano più o meno attorno ai 16 punti, 6 assist e 10 rimbalzi per allacciata di scarpe, il che non è assolutamente male. Soprattutto impressiona la capacità di trovare il canestro in penetrazione e l'ottima predisposizione nel portare la palla ed organizzare il gioco per i compagni, seppur il limite apparente del suo gioco in questa prima fase sia evidentemente il tiro da fuori, che opziona pochissimo. Tuttavia, le sue capacità di all around erano più o meno conclamate, ma io personalmente non pensavo fosse così spiccata ed a tratti impeccabile la parte relativa alla gestione ed alla costruzione di gioco. In tutto questo inizia ad apparire misteriosa la scelta alla numero 1 dell'ultimo draft di Markelle Fultz. Certo, ancora è prestissimo per giudicare questo giocatore, soprattutto considerando che si vocifera abbia un grave fastidio alla spalla. Il ragazzo però è apparso notevolmente acerbo, tanto da essersi subito presentato partente dalla panchina a seguito delle sue prestazioni in pre-season. Fultz, che non arriva a segnare 8 punti a partita, ma soprattutto smazza meno di 2 assist per gara, dovrà crescere soprattutto mentalmente ed a livello carismatico, perché se in questa fase è il caso di tralasciare sia le palle perse che le scelte dubbie tipiche di un giocatore tanto giovane agli esordi, l'apparente stoffa attitudinale non rimanda ad una scelta numero 1. Oltretutto sembra aver più di qualche problemino dalla lunetta, il che denota sia una tecnica rivedibile e far venire in mente una scarsa predisposizione al lavoro, che una possibile fragilità emotiva. Va detto comunque che se davvero è grave il fastidio alla spalla che subisce, c'è un'apparente giustificazione sull'effettiva qualità bassa delle sue prime prestazioni. In realtà la domanda che sorge spontanea è: se il fastidio alla spalla è così grande, per quale ragione mettere immediatamente al centro della mischia un giocatore tanto giovane e tanto osservato speciale, in quanto appunto per molti immeritatamente scelto al numero 1? Tra l'altro, esulando per un secondo dalla questione rookies, dopo aver visto recentemente uno 0 su 2 di Andrew Robertson di Oklahoma City Thunders senza prendere il ferro nello stesso viaggio in lunetta per 2 tiri liberi, la questione appunto dei liberi torna per me prepotentemente di attualità. Io credo non sia tollerabile che un giocatore simile produca scene tanto scandalose. Un conto era Shaquille O'Neal, che tirava sì malissimo dalla lunetta, ma le sue cifre e l'impatto che aveva sul gioco portavano chiunque a perdonargli di aver creato indirettamente quell'antipatica tattica che era l'hack a Shaq, che rese il gioco a tratti inguardabile. Abbiamo perdonato la carenza della lunetta anche a Dennis Rodman, che di fatto non si applicava ai liberi perché ogni viaggio in quella zona lo annoiava, ma contemporaneamente sputava sangue sotto i tabelloni e su ogni palla vagante. Possiamo attualmente perdonarlo anche a DeAndre Jordan, che ha ovvi limiti tecnici al tiro. A giocatori però come Robertson o Fultz invece non si può perdonare una deficienza tecnica tanto palese, che nel caso della guardia di Oklahoma City denota una inesistente concentrazione, perché almeno il ferro su 2 tentativi consecutivi deve essere preso, e oltretutto un'assenza totale di miglioramento in un fondamentale che può assumere toni decisivi. Non è tollerabile tra l'altro che dopo una serie di playoffs come quella contro Houston dello scorso anno, dove Robertson veniva cercato per essere mandato in lunette e sprecare automaticamente il possesso offensivo della propria squadra, lo stesso giocatore non abbia passato l'estate a migliorare ed a lavorare su quel fondamentale. Evidentemente però è andata così a vederne già i risultati. Quindi attenzione anche a questo fondamentale, che spesso non viene considerato perché evidentemente è poco spettacolare, però spesso con i liberi si vincono le partite. Quindi che Robertson possa rappresentare l'anello debole del quintetto di Oklahoma City e che Fultz debba necessariamente, spalla o non spalla, iniziare ad applicarsi, è cosa necessaria da sottolineare a mio avviso. Torniamo comunque a parlare di rookies e chiudiamo con la settimana d'esordio dell'attesissimo Lonzo Ball, nuova sensazione di Los Angeles. Purtroppo per parlare di questo giocatore dobbiamo scindere due categorie, quella collegata al gioco e quella che io preferirei evitare, collegata al clamore mediatico mantenuto a livelli altissimi dalle sparate provocatorie del padre LaVar Ball. Purtroppo non si può raccontare l'esordio contro i Clippers di Lonzo a prescindere dalla figura del padre, perché nella sua prima partita NBA il giovanissimo ex UCLA si è trovato di fronte uno dei difensori più forti della Lega, Patrick Beverley, che già stanco delle smarronate del padre LaVar ha deciso di rendere la vita impossibile al figlio in campo. Ne è nata quindi una prestazione al tiro piuttosto deludente per il Laker, con conseguente dimostrazione di ignoranza da parte dei due protagonisti del tutto, appunto Beverley e LaVar, che si sono presi a male parole a distanza nel post-match. In realtà però nella sua seconda gara da professionista, Lonzo Ball ha ciccato la tripla doppia per appena un assist nella vittoria esterna dei Lakers su Phoenix, chiudendo con 29 punti, 11 rimbalzi e appunto 9 assist. Guardando quindi all'aspetto prettamente tecnico, il ragazzo, per quanto abbia una meccanica di tiro a mio avviso discutibile, ma evidentemente efficace anche a riguardare le sue prestazioni al college, ha la stoffa per diventare il leader della squadra fin da subito ed apparentemente il carisma per reggere l'ingombrante presenza sui media e l'odio canalizzato a causa del protagonismo del padre. Chiaramente deve aggiustare le percentuali, ma l'ottima capacità di gestione del gioco, il controllo del pallone e la visione di gioco, oltre alla sorprendente conferma della sua presenza al rimbalzo, hanno già impressionato in una squadra come i Lakers, che tra l'altro sembra aver pescato dal draft anche un'altra sorpresa come Kyle Kuzma, che nelle prime tre gare si attesta attorno ai 14 punti di media, una statistica che presumibilmente non manterrà tale, ma che ne fanno già prospetto piuttosto sorprendente. Se volete una mia impressione sui Lakers, da abituato al gioco senza capo né coda degli anni passati, fanno una discreta impressione a vedersi in questo avvio così organizzati e grintosi anche nelle sconfitte. Sarà Lonzo Ball, sarà il rinnovamento e la crescita di alcuni giocatori che iniziano ad avere qualche esperienza sulle spalle, ed indubbiamente sarebbe comunque un errore anche il solo pensare di sperare di vederli ai playoffs, ma sembra che qualcosa sia scattato e che il processo di ricostruzione sia finalmente incanalato in un binario un minimo più concreto e realistico degli anni precedenti. Impossibile inoltre non parlare della prima settimana di colui che in molti già indicano come il potenziale candidato al titolo di MVP stagionale. Si tratta del giocatore con il nome più impronunciabile del lotto, il greco Giannis Antetokounmpo. Il ragazzo, tra l'altro colpito dalla morte improvvisa del giovane padre durante la preseason, ha iniziato il suo campionato con il fuoco negli occhi, tra l'altro mostrando una crescita fisica ulteriore e visibile rispetto allo scorso anno. Nelle prime 4 gare stagionali, The Greek Freak si attesta attorno ai 38 punti per allacciata di scarpe, con già una vittoria leggendaria dove, con un recupero, una schiacciata a seguire staccando da poco dentro la linea di tiro libero ed una stoppata sull'altro lato del campo, ha deciso da solo la sfida contro Portland, chiudendola con 44 punti. La sicurezza nei propri mezzi e la crescita esponenziale proprio di questi lo rendono effettivamente impressionante, tra l'altro ben inserito in una squadra ancora orfana di Jabari Parker, ma che tutto sommato risulta ben strutturata attorno al talento di questo 22enne. Ottimo infatti l'avvio di stagione di Malcolm Brogdon in regia, seguito dalla conferma di specialisti come Middleton e Snell, e dal concreto avvio di un grintoso Matthew Della Vedova. Per quel che può contare, i Bucks sostano al secondo posto in Eastern Conference in questo momento con 3 vinte ed una sola sconfitta. È ancora presto ovviamente per provare anche lontanamente a tirare le somme, ma l'avvio fa ben sperare, a maggior ragione in una Eastern Conference dove per loro non dovrebbe essere tanto difficile quantomeno garantirsi il passaggio ad un possibile secondo turno di playoffs, visti i valori visionati. Quindi, a proposito di valori, concludiamo dando un'occhiata rapida alle delusioni e alle sorprese di questa prima settimana di avvio di stagione. Ad est sorprende, ma si tratta comunque in realtà di una conferma, Washington, trascinata da un John Wall seriamente coinvolto in una personale sfida con il mondo intero per dimostrare di essere tra i migliori giocatori in circolazione. Da sottolineare come stiano ottenendo tantissimo da un Otto Porter Jr. scatenatissimo e da un Gortat che ad oggi non ha affatto fatto rimpiangere centri più titolati. Giocatore sorpresa ad est, almeno per me, D'Angelo Russell, che deve essersi sentito rinfrancato nell'aver abbandonato un ambiente divenuto per lui complesso come quello dei Lakers per diventare il leader effettivamente conclamato di una squadra come Brooklyn, non certo destinata a far cose incredibili, ma comunque piuttosto dignitosa nel tabellone della Eastern rispetto allo scorso anno. Per l'ex pupillo di Kobe Bryant, partenza con 21 punti e 7 assist di media. un pizzico di delusione da parte mia per i giovani Philadelphia 76ers e per una loro partenza che li ha visti sconfitti nelle prime tre uscite stagionali. Comprensibile però il fatto che una squadra tanto nuova abbia bisogno di numerose gare di rodaggio. Il problema in questo caso è il mio, che forse mi aspettavo un miracolo immediato, anche se la stoffa potenziale è visibile e ben diversa anche dalla squadra al completo dello scorso anno. Ed intanto comunque hanno vinto la prima gara in trasferta a Detroit, come già detto precedentemente, quindi la loro stagione potrebbe iniziare effettivamente adesso. E vi ricordo comunque che questa settimana sto registrando di martedì pomeriggio, quindi i risultati si fermano alla notte di lunedì. Ad ovest, ottima partenza dei soliti e bipolari, per la verità non tanto fino adesso, Memphis Grizzlies, che hanno anche sconfitto Golden State in casa, generando un certo nervosismo in Kevin Durant e Stephen Curry, entrambi espulsi nel finale di partita. I due giocatori degli Warriors hanno avviato per la verità benissimo la stagione da un punto di vista statistico, ma la squadra è incappata in due sconfitte nelle prime tre gare. A proposito sempre di Golden State, impressiona comunque il contributo dalla panchina di Nick Young in queste prime partite, con una media punti attorno ai 10 per gara, mentre tornando ai Grizzlies, super avvio per i soliti Gasol e Conley, quest'ultimo determinato a mostrare di meritare l'oneroso contratto firmato lo scorso anno, degno di una delle prime 5 point guard della Lega. Ottimo avvio anche per gli Spurs, con un Aldridge in versione leader conclamato laddove Kawhi Leonard deve ancora esordire, mentre progetto interessante si rivela quello dei Pelicans, che sembrano necessitare di assestamento di contorno alle Twin Towers, ma stanno dimostrando che i due giganti Cousins e Davis non faticano assolutamente a giocare insieme, ritagliandosi ognuno i propri spazi dovuti. Benissimo, con queste rapide impressioni siamo giunti alla conclusione di questa puntata di NBA Week, pertanto vi ricordo i nostri appuntamenti, tutti i venerdì sera alle 21 sul flusso streaming di Radio Big World, tutti sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno, e ricordatevi di seguirci anche sulla nostra fanpage su Facebook che si chiama appunto NBA Week. Grazie per l'ascolto, a risentirci la settimana prossima. Hey!